뚜레뚜따띠라. 따레르두바레 따세이라 까파시마 쥬스타니엔다파 아바타멘다얀 야말라 미자비아츠스탄 주안메카르모니에 야말라이 파리아마 미제 과윤첼 감마군데 벨라 tutta posta ne guerimaro e catta stugile quando vai in cielo guarda che la la carmaniella senta aliato iata la chiama carmaniella senta aliato iata la chiama e allora chiama fora du gigina chi laga venne patatina palla che stasera ne pasca nessuna sabba che ma fa e magna mai non c'ha pozzi che fa niente e magna mai già non è qualcosa su te rienta e magna mai forse pa voglia ma fa malà e magna mai ma non c'ha faccia sai che scala e magna mai non c'è stanna sorda la crisi ci ha scassato che ogni sera sta mancata noi non diamo più cucina me a ballare perché non c'è l'ultima fa spannaia Gigi Palmena nata bella chiena chiena stasera io managgia vorrei bene mietta sciocca sciappa è pura tamunnezza è una dubescia cara rindarezza è una dubescia cara rindarezza sti patatina venano all'Olanda io fira tanto sono a Sarabanda quando è spisa fino a Mosca viaggio Come on.